Mix 24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Possiamo trovarci in una situazione in cui gli Stati Uniti spendono sempre più del 3% del proprio PIL per la difesa soprattutto che riguarda poi l'Europa, e al contempo l'Europa magari spende l'1%, è in proporzione al proprio PIL, ogni paese deve fare la sua parte. Obama viene qua perché si è preoccupato della nostra riduzione di spese militari, degli F-35, se Napolitano subito va in televisione a dire un momento, aspettiamo, non bisogna risparmiare su tutto. Io dico che c'è un grande dibattito sugli F-35 in Italia, ma il vero problema è l'F-24 più che gli F-35. La gente si chiede, ma noi che non siamo questa grande potenza, che ci importa di avere 100 cacciabombardieri? No, beh, intanto non sono già 100, ma nell'ultima ipotesi sarebbero 90. Noi abbiamo spiegato benissimo a Obama che abbiamo intenzione di ridurre le spese militari. Quindi quasi ridurrete, 3 miliardi in 3 anni. Quindi ridurrete anche l'acquisto di questi F-35? Io credo che una revisione del programma sarà necessaria. È sbagliato parlare solo degli F-35. Noi dobbiamo ripensare, rivedere e ridurre complessivamente i sistemi d'arma. Vorrei ricordare a chi ci ascolta che il ministro ha un motto e sono le 3 R: ridurre, rivedere e ripensare. Forse è caso di aggiungere una quarta di R: rispondere. L'Italia deve guardare a quale tipo di apparecchiatura militare avrà tra 15 e 20 anni, soprattutto che adesso che la questione di sicurezza diventa un problema, come vediamo in Ucraina. Noi abbiamo degli accordi con l'esercito italiano, si è parlato del fatto che si andrà avanti, forse si dovrà rallentare l'acquisizione, ma non credo che ci sia nessun interesse nel ridurre il numero. Professor Arturo Parisi, buongiorno, ex ministro della difesa. L'ultimo a parlare era l'ambasciatore americano John Phillips. È stato chiaro, gli F-35 non si toccano, ma decidono loro? Ma evidentemente no, e questo è il guaio. Il fatto che noi non riusciamo a parlare con parole di verità e inevitabilmente responsabili del tema costringe e mette in tentazione altri dal dire la loro, in modo che, trattandosi del rappresentante del Grande Fratello, risulta più pesante degli altri. Però, professore, messa così non è che siamo un paese a sovranità limitata, limitatissima. Beh, cosa vuole? Noi difendiamo quello che è il nostro spazio vitale, usiamo questo termine, a cominciare dal nostro territorio nazionale, e non in solitudine, ma all'interno di un'alleanza. Certo. Il solo fatto che abbiamo scelto o abbiamo riconosciuto la necessità di poterlo difendere solo assieme ad altri definisce il nostro limite. Naturalmente. Ma se sono 50 invece che 90 in un momento di crisi, che cosa cambia? Ma ascolti qui, il tema che è in discussione non è il tema degli F-35, ma proprio il tema del ruolo della difesa armata e quindi della difesa più generalmente. Se uno nei tempi duri in cui ci troviamo si trovasse con la porta scassata che costringesse la famiglia a fare i turni la notte perché non riesce più a chiudere la serratura, pur avendo difficoltà ad assicurare tutto il pane di prima, da che cosa inizia secondo lei? Beh, dipende se c'è qualcosa da rubare in casa oppure no. Beh, una delle cose da rubare è la vita, o mi sbaglio, lei dormirebbe tranquillo con la porta spalancata. Se i cittadini italiani, nella loro generalità, pensano di poter dormire la notte in modo tranquillo con la porta aperta, evidentemente dobbiamo ripensare molte delle cose. Ecco, che ma stiamo discutendo. Professore, ma i conflitti armati e le guerre, allora nella sua ipotesi, sono lì, proprio sono lì alla porta di casa? Sulla porta di casa, esattamente questo. Guardi, se io mi infilo nei guai cercando di, come dire, aiutare il governo di turno, certo, l'ho fatto per tutti i miei successori, a spiegare per ai quello l'abbiamo chiamata. Ecco, a spiegare ai cittadini a che cosa serve la difesa e perché muovo dal riconoscimento che ho sperimentato in prima persona, ma che continuo a verificare, che la difesa è il settore dell'attività dello Stato la più indifesa, perché non riesce a dare la risposta al perché. I cittadini hanno perso, sembrano aver perso il senso del perché. E quindi un povero amministratore di condominio, qual è in questo caso il governo e per questa funzione il ministro della difesa, sostanzialmente si trova, come dire, contestato dai condomini perché sta a preoccuparsi. Ma perché non si riesce a spiegarlo, professore? Eh beh, questo è un discorso complicato. Inevitabilmente più lungo. Perché da troppo tempo ci interessiamo solo, come per dirla complicata, dell'ic et nunc, e l'ic sostanzialmente sta sempre più restringendosi, il nunc ancora di più, cioè dire ci occupiamo solo delle cose del momento, ragioniamo al minuto. Già l'idea che per comprare un aereo bisogna cominciare a mettersi in pista 20-30 anni prima che l'aereo sia nella nostra disponibilità è qualcosa che esce fuori dall'esperienza immediata. Ecco, c'è Mario Secchi, professore, che vuol farle una domanda. Sì. Buongiorno prof. Buongiorno. Allora, anche questa secca, cioè vogliamo stare nella NATO ma senza pagare, è possibile? Sì, no, più semplicemente facendoci proteggere dagli altri e poi lamentandoci della loro protezione. Professore, sono Buttafuoco. Buongiorno, è sempre una questione di amico e nemico. Le faccio una domanda: culturalmente, politicamente, tra il Partito Democratico e quel che resta del berlusconismo, a suo giudizio, chi è più fedele agli ordini dell'Alleanza Atlantica? Ma guardi, alla fine per fedeltà sono fedeli tutti. Di notte, cioè, tutti badogliani. Di giorno esibiscono diverse facce, ma di notte sono fedeli tutti nello stesso modo, perché devono fare i conti con la durezza della realtà. Il guaio è che questa confusione mentale, questo rifiuto di guardare la realtà, come dire, a viso aperto attraverso tutte le aree politiche del paese. Grazie professore, grazie per il suo intervento. 800 24 00 24, il numero verde. SMS 349-238-6666. È uscito da poco il rapporto annuale sul cambiamento climatico, sui cambiamenti climatici che ci colpiscono. Mentre siamo seduti qui, intorno a noi c'è una devastazione massiccia. Non abbiamo mai avuto dei tifoni così. Distruzione e morte, intere zone allagate, strade interrotte, paesi isolati, case abbattute, ponti venuti giù. Oddio, oddio! Irene è il settimo uragano a colpire quest'anno il bacino atlantico. Nella sua corsa attraverso gli stati orientali ha lasciato 1 milione di case senza energia elettrica e quasi il doppio di persone con l'ordine di evacuazione. La devastazione portata sulla costa orientale dall'uragano Sandy, i danni sono ingentissimi. Lo stato del Queensland è ancora alle prese con una delle peggiori alluvioni degli ultimi decenni. Intere città trasformate in paludi, isole semisommerse. I appeal to all, please no more delays, no more excuses. Mi rivolgo a tutti, per favore, basta scuse, basta rimandare. Domando a tutti noi qui riuniti, se non noi, allora chi? Paola Catapano, responsabile della comunicazione del CERN, giornalista scientifico. Era l'appello di Nader Fsano, uno dei tanti appelli che si sono susseguiti in questi anni sul cambiamento climatico. Ha ragione lui? Sicuramente ha ragione, soprattutto alla luce dell'ultimo rapporto dell'International Panel for Climate Change, 800 scienziati che studiano tutti i parametri relativi al cambiamento climatico. Dicono di sì, ma danno assolutamente per certa, oltre il 95% di certezza, il fatto che sia colpa dell'uomo, la causa dominante rispetto a tutte le altre cause responsabili del riscaldamento globale. Dottoressa Catapano, ci sta parlando dal dirigibile Italia alle isole Svalbard. Sì, ecco, questa è una base di ricerca italiana nell'ambito di un villaggio internazionale di ricercatori, dove la dominante è proprio la ricerca sul cambiamento climatico. Ecco, gli tsunami, gli uragani, le piogge torrenziali che si abbattono su ogni parte del pianeta sono l'effetto dell'aumento della temperatura? Certamente sì, anche questo è certificato dal rapporto sul climate change. Perché? Perché l'accumulo di CO2, di gas che riscaldano l'atmosfera, modifica moltissimo quelli che sono gli equilibri climatici del pianeta. Ecco, e uno degli effetti principali è che quando l'aria diventa più secca a causa del riscaldamento globale, le aree umide diventano ancora più umide e quindi questo aumenta la quantità di pioggia, la quantità di effetti estremi del clima. Sì, ma lì alle isole Svalbard, sì, come si studia in concreto il cambiamento climatico? Allora, negli ambienti polari, non solo qui vicino al Polo Nord, ma anche in Antartide, sono dei laboratori naturali per studiare tutti i parametri relativi al cambiamento climatico. E qui c'è uno strumento importantissimo che è la Climate Change Tower, la torre del cambiamento climatico, che è stata finanziata in parte anche dall'Italia. Ed è una torre di 34 metri che ha tutta una serie di sensori che fanno il monitoraggio continuo dello strato superficiale dell'atmosfera. Per scoprire cosa? Per scoprire questi dati in situazione al polo, quindi dove non ci sono inquinanti come nelle zone dove si abita in generale, come questi parametri vengono influenzati dall'inquinamento, dal riscaldamento, eccetera. Ma la cosa importante è che questi sono dati che sono integrati in una rete mondiale che fa un monitoraggio continuo di questi parametri. Dottoressa Catapano, ma che cosa si scopre osservando il meteo della Terra degli ultimi 800.000 anni? Ecco, il dato che veramente fa più impressione è il fatto che ci sono sì queste variazioni climatiche cicliche che caratterizzano il nostro clima da milioni di anni, però quello che sconvolge è vedere come dal momento della rivoluzione industriale, quindi fine anni 1700, fine XVIII secolo, fino ad oggi, c'è una impennata che va sempre più dritta, come curva, nel contenuto di gas serra in atmosfera. Quindi ci stiamo negli ultimi due secoli, ci stiamo suicidando rispetto ai primi 800.000 anni della Terra? Esattamente. E un altro dato che viene proprio da queste zone polari è che l'influenza umana, siamo riusciti a distinguere i fattori non dovuti all'influenza umana rispetto a quelli dovuti all'influenza umana sul riscaldamento climatico, e quelli sull'influenza umana hanno una rilevanza molto più grande rispetto al sole, all'inclinamento dell'asse terrestre, negli ultimi 1400 anni soltanto. Non si è mai registrata un'influenza umana oltre il 95% responsabile di questo riscaldamento del pianeta rispetto agli altri dati. Sì. Senta, dottoressa Catapano, però esiste una fetta di grandi illustri scienziati che sostiene che l'aumento della temperatura fa parte della ciclicità del cambiamento climatico. No, non è più vero. Anche questi scettici, adesso con l'ultimo rapporto dell'International Panel for Climate Change, su questi dati non hanno assolutamente niente da contraddire. Diciamo che ci sono... è la complessità degli studi che fa sì che ci siano voci discordanti che poi vengono riportate dai media in maniera distorta, anche perché non è semplice capire sì, queste conclusioni. Sì, però molti, dottoressa, dicono che è una fase naturale, che non ma c'è niente da preoccuparsi. Mi faccia finire la domanda. No, assolutamente. Allora, diciamo, gli esperti che collaborano alla interpretazione dei dati da varie ricerche provenienti tipicamente dalle zone polari, ma non solo dai dati delle campagne oceanografiche, sono 800 persone riunite che analizzano questi dati per anni e dopo pubblicano un rapporto quando l'analisi è finita. Loro sono la stragrande maggioranza degli esperti. E quelli che dicono il contrario cosa sono? Stupidi? Quelli che dicono il contrario, stupidi, cioè, non sta a me dire se sono stupidi o meno, ma in realtà non ci sono più quelli che dicono il contrario. È un'amplificazione dei media di queste voci. Quindi, dottoressa Catapano, chi dice che il cambiamento climatico è una bufala sta sbagliando di grosso, è così? Assolutamente, questo negazionismo veramente non ha alcun senso. L'ultimo rapporto è chiarissimo. Vabbè, su l'ha questo detto, punto. L'ha detto. Senta, sì, dottoressa Catapano, l'aumento della temperatura su quali aspetti della vita dell'uomo incide di più? Tantissimi. Mi dica i due o tre principali. Beh, la vita su questo pianeta dipende dalla per esempio disponibilità di risorse idriche, e quindi il cambiamento climatico nelle zone secche rende questa situazione molto più pesante e molto più grave. Dopodiché uno degli effetti che dall'ultimo rapporto sono venuti fuori sono molto più amplificati rispetto a quello che si pensasse in passato, quindi questi rapporti sono stati conservativi in passato e oggi le conseguenze sono peggiori di quelle che ci si aspettasse. Ma mi dice la cosa peggiore? La cosa peggiore è peggiore perché è immediata, è lo scioglimento dei ghiacci è l'aumento del livello del mare. E l'aumento del livello del mare che cosa significa? Per esempio cancellare tutta una serie di città, non solo Venezia ma anche Londra, città vicine alle zone costiere, in zone in queste zone quanto qui, tempo? Un centinaio di anni, di anni se si continua così, sì, un innalzamento, poi l'aumento di fenomeni che stiamo già vedendo estremi in zone normalmente temperate, tipo inondazioni, problemi all'agricoltura, problemi alla migrazione delle specie, estinzione di specie, cioè si viene a spezzare tutta una serie di equilibri fragilissimi che fanno del nostro pianeta uno degli unici posti nell'universo in cui ci può essere questo tipo di e che hanno retto per 800.000 anni e sono stati rovinati in questi 200? Esattamente, cioè se vogliamo fare una sintesi per il grande pubblico, sì, quello vogliamo è così, fare. È così. Senta, i grandi della Terra cosa devono fare subito allora? Allora, questo rapporto non è solo una Cassandra, ma spiega... Cosa propone? Di occuparsi di adattabilità, di mitigare questi effetti. No, ma mi dica delle cose concrete, i politici devono fare delle scelte concrete, cosa devono fare? Ci sono modi per produrre l'energia in maniera molto meno inquinante, cioè combustibili elettrica. Fossili. Combustibili fossili sopprimere, questo chiaramente. E poi ci sono tutta una serie di modi di essere ecosostenibili, queste sono, avere un mix energetico. Una vita più ecosostenibile tutti, ognuno nel suo piccolo. Questo? Assolutamente, dall'individuo alle comunità, agli interi paesi, alle città. Dottoressa Catapano, lei per chiudere, lei in concreto nella sua vita di tutti i giorni, che cosa ha cambiato da quando ha letto questo rapporto? Beh, in realtà io sono sempre stata abbastanza ecosensibile. E nella vita di tutti i giorni si cerca di consumare l'elettricità, per esempio, fare una lavatrice di notte quando l'elettricità costa di meno e costa di meno anche a chi la produce, fare raccolta differenziata, isolare bene le case per consumare meno energia elettrica, avere una diversificazione di fonti energetiche dal caminetto e la legna per riscaldare la casa al gas metano per cucinare e cercare di usare più la bicicletta che fa bene anche alla salute, perché in effetti anche in questo rapporto, quello che c'è scritto, ci sono moltissimi modi nuovi di vivere che fanno anche bene alla salute. Una vita più sana ci aiuterà a recuperare la condizione di vita di 800.000 anni fa. Questo basta lei. Essere anche consapevoli di questa cosa, il cambiamento viene poi naturalmente. Certo, prima la coscienza, poi i fatti. Qualche orso polare l'ha incontrato o no? Siamo obbligati a fare dei corsi di autodifesa dall'orso, fuori dalla base si gira solo con armati, perché sono una vera minaccia, sono la maggior, diciamo, sono maggioritaria. Quindi se le incontrate gli sparate? Dipende, non andiamo a caccia, se li incontriamo dipende a che distanza si trovano, bisogna sempre avere delle regole. A quante distanze è pericoloso l'orso polare? Allora, l'orso polare che fa 11 metri al secondo comincia a essere pericoloso sotto i 30 metri di distanza. E attacca l'uomo? Bisogna considerare che attacca sempre, quando è a quella distanza bisogna considerare che attacca, in realtà... attacca se ha fame e in questo momento, visto che gli ghiacci si sciolgono e hanno pochi iceberg per catturare il loro cibo preferito, voi siete prede ideali. La foca, quindi hanno bisogno di molto grasso, noi siamo neanche uno stuzzichino, però in una situazione se mancanza in cui, d'altro sì, diciamo, non siamo la sua vabbè, preda vabbè, preferita. Speriamo che non capiti. 800 24 00 24 numero verde, sms 349 238 6666. Mario, volevo chiederti una cosa, ci scrive un amministratore delegato di un'azienda aeronautica, dice: Minoli, l'F-35 i tedeschi non l'hanno preso perché non serve, eppure l'Ucraina è più vicino a loro che a noi. Tu che sei molto... I tedeschi hanno un altro programma di difesa, hanno scelto di investire in Eurofighter. Hanno circa 140 aerei ordinati, hanno fatto già una riduzione di una trentina di aerei, vorrebbero scendere a 108 aerei, però non è che non hanno gli aerei, ce li hanno, è un caccia di diverso tipo. Sì, ma ci servono sti aerei, sì, adesso non c'è più il professore. Sai, quando sono state fatte le guerre, giuste o sbagliate, non stiamo qui a giudicare, tutti partecipavano ai bombardamenti e così via. Quindi... C'è Pietrangelo che deve dire una cosa. Si diceva, l'aratro che traccia il solco come la spada che lo difende, ma in assenza di solco... L'aratro e la spada non si usa. E siamo lì, la porta. Manca il se solco. Si difende la porta o no, se non si mangia dentro quella casa è un problema. Intanto noi abbiamo con noi il dottor Roberto Sparapani. Lei è il capo base del Dirigibile Italia, che è chiamato così per ricordare la spedizione di Umberto Nobili al Polo Nord. Ecco, dove sono esattamente le isole dove state facendo gli esperimenti, le Svalbard? A nord del nord della Norvegia, quindi qualcosa molto a nord, si trovano tra il 74esimo e l'81esimo parallelo nord, e per un gioco di clima, cioè in realtà proprio per la capacità che la corrente del Golfo ha di raggiungere queste latitudini così in alto, sono in realtà per la collocazione dove si trovano un posto molto vivibile rispetto ai luoghi all'interno del Canada o della Siberia, cioè le temperature qui sono un po' più miti. Quanto vuol dire? In questo momento fa meno 8, abbiamo temperature invernali che raggiungono anche meno 25, meno 30, però possiamo avere all'improvviso, proprio perché vengono queste correnti da sud calde, anche pioggia in pieno inverno. Ecco, ma perché si studia proprio lì il clima? È proprio perché questo è un punto di frontiera, se lo vogliamo dire, è proprio il luogo dove si incastrano e si rincorrono le correnti che vengono da sud e le correnti che vengono da nord. È un luogo che è a distanza, grande distanza dalle zone antropizzate, quindi dall'Europa. Diciamo, questo è un luogo incontaminato, se possiamo definirlo. Diciamo tutto e due, arriva e non arriva, quindi noi abbiamo la possibilità di studiarlo sia quando, come si dice, è sotto l'influsso e quando non lo è. Ah, perfetto, quindi si vede la differenza. Esatto. Ma come si svolge la giornata a campo base? Ci si alza molto presto la mattina, alle 7, si organizza il piano della giornata se non lo si è fatto la sera. Qui abbiamo delle orari molto stringenti, perché in realtà noi siamo parte di una comunità, ci sono altre nazioni. Ecco, ma in realtà cosa fate? Cioè, noi facciamo attività di ricerca, abbiamo alcune attività che sono di routine, cioè strumenti che abbiamo installati diciamo intorno alla base, intorno alla stazione, che vanno giornalmente controllati, monitorati, eccetera. Poi abbiamo gruppi di ricerca che si alternano, e quindi in funzione di quelli che sono i gruppi di ricerca, biologi marini, oceanografi, abbiamo gente in questo periodo. Ma i momenti più duri quali sono? È quando capita, come è capitato qualche settimana fa, che avevamo un gruppo di ragazzi che erano qui su al ghiacciaio a fare dei snow pit, delle buche nella neve, e nell'arco di un'ora è cambiato il tempo e sono rimasti bloccati per diverse ore sul ghiacciaio fino a che alla fine siamo andati a prenderli. E sono arrivati gli orso polari? No, fortunatamente no, perché insomma la posizione era tale che non, insomma, è difficile. Ci sono anche dei luoghi che sono più pericolosi e altri meno pericolosi. La Catapano ci ha detto che quando ci sono gli orsi polari è molto molto pericoloso. Quello lo è assolutamente, e purtroppo è un pericolo che a volte da qualcuno viene sottovalutato, perché magari si passano anche mesi senza vederne uno e quindi diventa un po' un pericolo che si sottovaluta. Senta, ci sono anche giovani ricercatori con voi? Assolutamente sì. In questo quanti momento anni, abbiamo... di quanti anni? Allora, adesso abbiamo uno studente che sta facendo la sua tesi di laurea di Venezia, che ha 25 anni. Sono già qualche anno che noi abbiamo questi accordi con diverse università e i ragazzi che sono in tesi vengono qui e fanno la loro tesi. E come si arriva fino lì? Cioè, per cosa bisogna vincere? Una borsa di studio? Che cosa? No, noi abbiamo una sorta di accordo con alcune università che svolgono già da tempo attività qua, e quindi facciamo una selezione, loro ci mandano dei curriculum e noi cerchiamo di selezionarli in funzione delle attività che dobbiamo svolgere quell'anno e poi anche nelle ma loro cosa attività. Sono dei geologi? Questo che abbiamo adesso è un chimico, scienze naturali, scienze ambientali. Lo scorso anno avevamo un chimico fisico, dipende un po' dal tipo di attività. Ecco, sì. Insomma, quindi un giovane, se cerca lavoro, non deve escludere neanche il Polo Nord, mettiamola assolutamente così. Anche perché è un Erasmus, che loro vivono a contatto con ricercatori di altre 10 nazioni, quindi è un'occasione unica. Di grande interesse. Assolutamente sì. Mix 24. Questa in metropolitana spopola. Sì, in metropolitana, non sai che cosa è successo, so che non mi crederete, ma comunque è arrivato da me un signore molto elegante, con dei baffetti spiritosi. E poi aveva il suo sguardo, il tipico sguardo suo, si chiama Filippo Tommaso Marinetti. Mi ha detto: butta fuoco, ma lei con Minoli e Secchi siete quelli che fate la radiovisione? Radiovisione, questa è una cosa bellissima, e siamo allora, in radiovisione. Radiovisione. E allora ho detto: eccellenza, sì, è pur sempre un accademico d'Italia, aveva perfino la feluca, era un'immagine futurista meravigliosa, coi controllori che in metropolitana distribuivano tulipani. Finiremo a recitare Zhang Tung, avete capito? Sì. Vai con le bolle. Beh, sentite qua. Per chi non lo sapesse, questo è l'incipit del inno ufficiale dei Marines. Allora, vabbè, allora. Qua stanno succedendo delle cose, cari amici. Nel silenzio più assoluto, nessuno ne parla. Allora, noi prendiamo il gas dall'Ucraina e il petrolio dalla Libia. Partiamo da questo. Non facciamo, siamo messi bene. Facciamo un quadretto. Beh, non siamo messi bene. Ma succedono cose incredibili. Allora, il Pentagono, 24 ore fa, ha spostato 200 Marines dalla Spagna alla Sicilia. Avete presente la Sicilia? Buttafuoco, hai presente? Presentissimo. Presentissimo. Allora, il Pentagono ha spostato 200 soldati dalla Spagna alla Sicilia. Ma saranno i soliti parenti dell'Achi Luciano? Non lo so. Comunque, li ha spostati. E nessuno ha detto niente. Perché? Perché pensano che in Libia stia per succedere qualcosa di serio. Ci sono tanti segnali. Ci sono tanti segnali. I Marines, per chi non lo sapesse, ma lo sanno tutti, fanno operazioni speciali. Se si muovono è un brutto segno. Commenti dal governo italiano? Zero. Nessuno. Nessuno, noi aspettiamo però di capire. A Washington il ministro Mogherini si è messa la spilletta, Democrat. Vabbè, sarà pure Democrat, però io vorrei ricordare che noi siamo il primo partner commerciale della Libia, di cui rappresentiamo il 20% delle esportazioni. Diciamo... Quindi. La verità, non siamo messi bene tra Ucraina e Libia. Poi in Ucraina, vabbè, vogliamo continuare, senti però, qua. F-35. Questo era il festival che hanno messo in piedi l'ultradestra di Odessa, che ha bruciato solo vive 41 persone, ma cosa volete che sia? Sono definiti democratici da quelli che li appoggiano. E vabbè, pazienza, come suol dirsi. E la situazione è più che caotica in Ucraina, da cui noi prendiamo il gas, che non è mai stato ucraino, è russo, giusto? È russo, passa di... passa in Ucraina, quindi a noi ci interessa, diciamo, perché è un terzo del gas, passa là, accidenti. Ebbene, i separatisti hanno votato, Kiev spara per reprimerli, blocca le strade nella regione di Donetsk con i carri armati. Stamattina è arrivato un ultimatum di 24 ore dei separatisti, se non lasciano libere le strade sarà guerra. Si sono aperti ieri i colloqui per cercare di evitare l'escalation della guerra civile. Sono colloqui finti. Perché... Insomma, Mario, diciamo una cosa. Putin si mette a fare il mediatore. Prima ha costruito la situazione, adesso certo. Media lui. Eh beh, certo. America e Occidente, Europa, ma sparito. Basta leggere i discorsi di Lavrov, il ministro degli esteri russo, un gigante, devo dire, che dice bisogna che si trovi la soluzione nel quadro nazionale dell'Ucraina. Prego, però tu sottovaluti sempre l'azione del ministro Mogherini, si è messa la spilletta Democrat. Vabbè, con quella e noi... quindi hanno fatto a Odessa, cosa hanno fatto? A Odessa è successo un massacro clamoroso sul quale tutta la stampa, le televisioni, il mainstream in generale ha messo una coperta derubricando la faccenda a un incidente. Odessa è stato un massacro incredibile, ci sono in rete delle immagini terribili che non sono andate in onda nei telegiornali. Vi dico solo che la gente si buttava dalle finestre perché le fiamme altrimenti li avvolgevano e sono morti lo stesso. Chi è rimasto dentro è stato strangolato oppure è morto carbonizzato, e ci sono documenti incredibili su questa possiamo cosa sperare, e nessuno solo, ne parla. Possiamo sperare solo in Putin, mi sembra che stai dicendo. Io dico solo una cosa, che l'Italia importa il 27% del gas russo, non ucraino. Forse noi dobbiamo cominciare a pensare un po' anche ai nostri interessi, quelli nazionali. Beh, questo non è l'inno italiano, è l'inno russo, ma vabbè, è lo stesso. Vabbè. Ma ci abbiamo i nostri ospiti? Certo, Dudu e Aiacete Lamonio informissima oggi sono pronti a rispondere alle vostre domande. Vai Mario. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Allora Dudu, che sei piccolino, per prima tu. Mario, c'è Dudu in linea? C'è Dudu? Sì, sì, sì, sì, sì, ciao Dudu. Buongiorno, anzi, mi scusi, gli ho dato del tu. Mario, puoi fare una domanda a Dudu? Ma una domanda d'attualità, vuoi? Una domanda, una domanda. Se si sostituisce a Toti a questo punto. Prego. Toti è un protagonista della scena internazionale. Se Mogherini ha messo la spilla Democrat, io ho l'orgoglio di avere appuntato sul guinzaglio. Tutù? Com'è che ha detto? Toti, tutù. Tutù, sei solo tu. Grazie. Dice che proprio non scherza su queste cose. Non si scherza, ma... no, anche perché c'è il problema dell'ordine alfabetico. Ma ho sentito che non scherza neanche da D'Alema, perché l'Europa è lì, il Colle è ancora più in lì, il Colle è ancora più vicino. Che dice? No, perché ho sentito che si occupa della Rai e ha dato ragione a Renzi nello scontro con come si chiama? Floris. Come mai? Dice che Floris ha lo stesso sapore dei polpacci di Friedman. Ciò non toglie che tutti i, com'è che ha detto? I fannulloni non sono solo prerogativa di Brunetta, ma anche di una sana coscienza consapevole e democratica. E insomma finiranno male. L'alleanza D'Alema Renzi sulla Rai, dici che fa un disastro? Chiediglielo un po'. Sì, perché già non funzionò coi Lothar, che erano troppo fragili. Vuoi che funzionino adesso con questi? Guarda che ci seguono, ci mandano i tweet i Lothar contro la catapana. Sì, ma i Lothar dovevano essere più duri. E i renziani sono squaglia acquazzina. Mamma mia, vai con una bolla che vai. Qui andiamo nel difficile. Senti. Abenomics has three arrows. La Abenomics è costituita da tre frecce. La prima è quella di una politica monetaria audace. La seconda è costituita da una politica fiscale flessibile. La terza freccia continuerà a incentivare gli investimenti privati. Allora, questo è il primo ministro giapponese Shinzo Abe. Esatto. Ci sono dei dati eccezionali sulla crescita giapponese che praticamente dal punto di vista annuale, diciamo così, dovrebbe crescere intorno al 5,9%. Mamma mia, quindi la cura funziona. Pare di sì, però sai, trimestre dopo trimestre bisogna vedere. Vedevo delle analisi adesso che prevedono un rallentamento invece nel prossimo, vedremo, insomma, è un film che è in corso di svolgimento. Intanto però segnalo che l'economia tedesca ha accelerato anch'essa, il PIL è salito dello 0,8%, raddoppiando il suo passo ed è trainato, però questo è interessante, soprattutto quasi tutto in realtà dalla domanda interna. Quindi niente che serva a tutti. Esatto. L'altra cosa che ferma in porto è la nave francese, invece. Hollande, ragazzi, ha un forte mal di testa. Nel primo trimestre la crescita è zero. Vogliamo zero. Sentire? Sì, e lui fa boom. Senti, boom. Boom, l'astro du jour fait boom. Tout avec lui dit boom, quand notre cœur fait boom boom. Ciao, strene. Va in Francia anche la coda rosa? Dove va? Povero piccolo mio amore. Cominciato già a sparire, no, finisce qui, l'hai scelto tu, va bene anche così, meglio per me se allora più. Io resto in Italia, faccio come i francesi, però con noi, no? Proteggo la nostra creatività. Oh, il diritto all'oblio. Come mi piacerebbe scomparire ogni tanto. Ormai bisogna sempre avere una cosa da dire, una foto da pubblicare, uno scoop da spiegare. sparare in rete. Invece il diritto all'oblio a sparire è stato riconosciuto dalla Corte Europea a un cittadino spagnolo che si chiama Mario. Mario un giorno apre il sito di L'Avanguardia e vede pubblicate notizie sul suo conto, però erano vecchie, capito, erano superate. Allora chiede gentilmente che vengano tolte, ma Mario scopre che scomparire da Google e più in generale dai motori di ricerca è impossibile. Allora si rivolge alla Corte Europea che gli dà ragione. Google fa sapere che è delusissima, pazienza, l'importante è che siamo contenti noi, giusto? 500 milioni di europei potranno chiedere a Google di non partecipare alla sua orgia di dati. Pietrangelo non scrive, è contento. Scrive Sergio Claudio Perroni oggi sul Foglio, ed estenderlo anche alle nazioni, il diritto di oblio, l'Italia ne avrebbe un gran bisogno. Beh. Mix 24 800 24 0024, numero verde 349 238 6666, SMS Salamino. Salamini lirici, salamini alla Scala. Allora, è successo che Lisner se n'è andato perché doveva andarsene, e adesso io, tu Mario, tu leggi il Financial Times e invece ti perdi che sul Washington Post viene descritto l'unico maestro, l'unico pianista che riesce a fare il suo pianoforte un'orchestra, Nazareno. Sei qui, Nazareno Carusi, il maestro. Buongiorno, Carusi. Buongiorno ai telespettatori, ah, ecco. Sono qui ma sento ancora le notizie del traffico. Sono radio telespettatori. Radio telespettatori. Cosa ho detto io? Hai ragione, no, niente, ho lui. Sbagliato. Ah, maestro, avete sbagliato. Ci immagina in televisione, maestro, già. Siamo nella radiovisione futurista. Allora, maestro... Lo so, ma ripeto, sento le notizie del traffico in sottofondo. Parliamo di Paolino! Ma forza! Pronto? Pronto? Paolino nostro, dov'è? La cooperativa Mona, che dice? Sento la pubblicità, no, sento... Ma come fai a sentire la pubblicità che non siamo in onda? Ma tu non parla! So. Parla come se fossi in diretta, hai perché sei cosa? In diretta! Beh, no, mi rendo perfettamente conto, però per esempio ho sentito che mi hai dato del maestro, invece Mona. Giusto, allora Mona, Paolo Isotta, prego! Il Paolo Isotta è stato dichiarato persona non grata alla Scala dall'inane sovrintendente Lisner, il quale ieri, secondo quanto riporta il giornale di oggi nella cronaca di Milano, in una conferenza stampa ha detto e ribadito: sono molto felice di averlo fatto fuori. Il razzismo non ha posto in questo teatro. Ora, la cosa incredibile, paradossale quasi, è che il più grande critico musicale vivente venga fatto fuori, come dice lui, dal peggiore sovrintendente che la storia della Scala abbia. Beh, ma gli estremi coincidono. Sì, però c'è un fatto. Torna. Cosa? Caro Mona, c'è un fatto, caro Mona Carusi, che, cioè dica. Che i Lisner se ne vanno e gli Isotta restano. I Isotta restano, e la cosa ancora più bella è che Paolino stamattina se ne stava tranquillamente con Ciampa, il suo bellissimo cane, al Parco delle Rive Grandi. Ah, un cane in più. Un cane, è finita. Vabbè, questo mi sembra che sia un clan. Sì. Non so se ho capito bene. Un clan tra Mona e cani. Il radiofonico potrebbe essere il prossimo personaggio. Grazie. Una dedica allora a Paolo Isotta. Fly me to the... Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu, il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Stava partendo Sinatra, stava non dico partendo altro. Sinatra. Fly me to the moon. Era meglio, è una domanda che resta sospesa nell'aria. No, Totò vince. Nella seconda ora, dedicata alla storia, a cura di Marina Bilone, parleremo di un grande leader afroamericano, della sua lotta contro l'apartheid. Era il 3 aprile del 68 quando Martin Luther King viene colpito mortalmente a Memphis mentre stava organizzando un nuovo corteo pacifico. Siamo in marcia, sì! Vogliamo dire a tutti gli americani e a tutte le nazioni che nessuno ci farà tornare indietro! Attraverso la non violenza, noi vogliamo aprire il dialogo, mettere in crisi le certezze di quell'America che, da sempre, rifiuta ogni negoziato. Con la non violenza, noi chiediamo il confronto, chiediamo di poter discutere. No, poi... Bolla! Vai. Da McDonald's si lavora sodo. Da McDonald's pagano puntualmente tutti i mesi. Il 90% dei dipendenti è a tempo indeterminato. Si può diventare direttore di ristorante già a 27 anni. Noi di McDonald's nell'Italia ci crediamo. Allora, crederanno certamente nell'Italia, è una grandissima azienda, voglio dire, però c'è un problema. Che e qual è il problema? C'è la protesta del fast food. Oggi in tutto il mondo, in centinaia di McDonald's, Burger King e altre catene alimentari, i dipendenti annunciano, dicono che faranno sciopero. Lì c'è il problema della paga minima, chiedono un aumento a $15 l'ora. L'80% dei ristoranti di McDonald's, bisogna ricordarlo, appartiene a imprenditori autonomi. La paga media di un dipendente negli Stati Uniti per ora è inferiore agli $8. La paga minima in America è di 7,75. Come sanno tutti, Obama nelle amministrazioni federali l'ha aumentata a 10,10. Ha chiesto di elevarla anche altrove. Ci vuole una legge del Congresso. È un tema. Vedremo come va a finire, professore. Dov'era il canone ieri sera, professor Simonelli? Sentitelo il canone. Fly me to the moon. Ah, ecco, ecco, era stato anticipato. Dov'era allora? Aspetti un momento, professore. Aspetti un momento prima di dircelo. Ci fai il canzoniere? E così abbiamo il tempo di rispondere. Nel 1517 il padre Bartolomé de las Casas ebbe molta compassione degli indios che si estenuavano nei laboriosi inferni delle miniere d'oro antillesi e propose all'imperatore Carlo V l'importazione di negri. Professore, lei lo sa chi è? L'autore? Certo. Lo dico? No. Provi a dirlo perché non indovina più nessuno. Facciamo una figuraccia. Jorge Luis Borges. Bravo! Feltrinelli. Un bel Feltrinelli al professore. Storia. Il titolo Storia universale dell'infamia. Allora, professore, ci dica questo canone di ieri. Il canone era da Sinatra, cioè The Voice of Italy, però. Perché mentre voi continuate a parlare di televisione importante, di dibattito politico, di D'Alema, di Floris, io cerco il canone nell'intrattenimento. E fa perché, bene. Perché senza intrattenimento non ci può essere canone. Non ci può essere neanche televisione. Ho scoperto un bel intrattenimento, che è The Voice. Quest'anno l'edizione bene. Di The Voice è veramente piacevole. E infatti è un programma prodotto... mi sembra da Radio 2 che da Rai 2 che lo ha inventato, lo ha immaginato e poi dopo lo mette in onda. E allora cosa succede? Succede che è un talent che però ha perduto tutti quei residui che spesso globalizzato e mondiale, forse non aveva colto l'ironia, professore. No, non avevo sentito. Vada avanti. No, è un format evidentemente. È un format straniero che però è diventato molto italiano nelle mani. E questo per fortuna degli adattatori, degli autori italiani. Sì, non avevo colto l'ironia. È cosa talmente nota. Va bene, professore. Ho parlato tante volte. Va bene, allora The Voice ci piace quest'anno. Sì, perché bene. Non c'è più reality, non ci sono più i parenti, non ci sono più le fidanzate, le storie pregresse, quelli che piangono. C'è soltanto lo spettacolo. E ieri sera Raffaella Carrà ha fatto una cosa strepitosa. Raffaella Carrà è non Daverio o Sgarbi o i professori di storia dell'arte. Ha presentato la sua squadra come... Siamo in chiusura, professore. Un gruppo di pittori. C'era Raffaello, c'era Picasso. Ormai va da solo. È un monologo. Professore, siamo in chiusura. Qui mi dicono, Nicoletta mi dice, bellissimo cosa cadrà dal cielo, Rai 4... Professore, lei ne sa qualcosa? Niente, ne parleremo domani. Pubblicità.